Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Inizieremo dal rapporto annuale dell'Istat, in parte ve l'hanno già anticipato i nostri GR, ma soprattutto inizieremo parlando dell'aspetto economico di questo rapporto, che è anche forse l'aspetto principale a giudicare dai testi ripresi dalle agenzie e dalle dichiarazioni che si sono susseguite. E cioè l'Italia, pur avendo pur scattando lì, è stata una fotografia anche con le zone di luce, per cui per esempio il nostro export ha tenuto nonostante la crisi, la capacità di reazione delle imprese sui mercati esteri è stata forse anche superiore alle attese. Beh, il problema, secondo l'Istat, nella fotografia appunto statistica che ha scattato, riguarda in primo luogo i giovani. Questa non è retorica, da quello che l'Istat ha registrato, diciamo la parte più pesante della crisi si è scaricata per ora sui giovani, addirittura con una specie di frattura generazionale, per cui, per dirla con una battuta, la cassa integrazione che ha salvato i padri ha mandato per strada i figli. Adesso capiremo anche perché. Il problema è quindi principalmente di disoccupazione giovanile, anche perché erano forme contrattuali in cui non era prevista la cassa integrazione, non erano in molti casi dipendenti, impiegati o operai. E poi un dato oggettivamente che ci ha lasciato molto sorpresi: sono 2 milioni di giovani che in età, diciamo, se vogliamo, ancora scolastica, anche se non proprio, non nel senso della scuola dell'obbligo, non lavorano né studiano. E questo è un dato obiettivamente che lascia sorpresi, perché la cifra è, insomma, 2 milioni di giovani a rischio esclusione tra i 15 e i 29 anni. 29 anni si è giovani solo in Italia, però 2 milioni a rischio di esclusione, e tra l'altro questo dato è il più alto in Europa. Quindi, quando poi parliamo di formazione e altre cose, ricordiamocelo, si chiamano in gergo NEET o NET, cioè Not in Education, Employment or Training. Non stanno studiando, non sono impiegati e non stanno neanche apprendendo un mestiere. Uno su cinque tra i 15 e i 29 anni, segnala l'Istat, non è in una situazione perlomeno formale in cui sta o studiando o lavorando o in qualche modo facendo formazione. Ed è molto cresciuto per via della crisi economica, sono 126.000 in più rispetto al 2008, quasi tutti concentrati al nord, 85.000 sono concentrati al nord e al centro, 27.000 di questo aumento, quindi poca parte nel sud, forse lì si partiva, anzi sicuramente si partiva già da un dato molto molto basso. Questi problemi fotografati dall'Istat, e potremmo anche dire i problemi del paese, l'occupazione giovanile. Altro tema ovviamente che tratteremo, la manovra finanziaria, dopo che ieri sono uscite tutte le indicazioni, abbiamo preparato anche una scheda. È atteso per le 18 l'intervento del Presidente del Consiglio per illustrare i sacrifici e i tagli presenti in questa manovra. Doveva essere questa mattina inizialmente alle 15, poi 15.30, poi 18, vedremo se verrà confermato anche alle 18. In ogni caso alle 24 lo farà ascoltare in diretta con uno speciale, quindi a quel punto il programma si interromperà, ammesso e non concesso che Berlusconi inizia a parlare alle 18. I mercati finanziari, allora oggi la giornata è buona, di recuperi netti, devo dire. Milano più 3%, Parigi più 3%, Francoforte più 2,2%, Londra più 2,7%, l'America più 1%, Nasdaq più 1,40%, euro invece ancora debole, anche se, ripeto, per come facciamo ormai da giorni, quota 1,22 non deve preoccupare. Anche nei confronti del franco svizzero siamo a 1,41,5, quindi un po' il rafforzamento. E l'euro sullo yen a 110 nei confronti sempre debole sullo yen. Tra i titoli chi va meglio? Luxottica, ma non solo. Luxottica guadagna 4%, ma soprattutto Tenaris più 8,20, Prismian più 8,1, Autogrill più 6,5, Exor più 6,3, Banco Popolare più 6,2%, Unipol più 6%, Bulgari più 5,5, Saipem più 5,3, CIR più 4,80, Luxottica più 4 come Italcementi. Chiudiamo con chi guadagna più del 3%, Unicredito più 3,7 come Popolare Milano, Azimut più 3,5 come Buzzi Unicem e ST Microelectronics e Pirelli. Lottomatica al 3,2% di rialzo, il 3% Fiat e anche Eni e anche A2A. E direi basta, poi tutto il resto guadagna tra lo 0,3 di UbiBank, lo 0,6 di Snam Rete Gas e appunto il 2,40 di Impregilo. C'è un titolo che perde parecchio, che è Ansaldo STS, poi ne parleremo, meno 2,70%. Migliori e peggiori, Eutelia più 22%, ma anche qui attenzione perché Intech sul risparmio più 14%, Cell Therapeutics più 14%, peggiori Intech meno 6%, quindi le ordinarie perdono 6%, le risparmio guadagnano 14%. Datalogic meno 6, Crespi meno 9%. L'ultimo numero, come sempre, quello per i vostri SMS, 349-238-6666. Parleremo anche di Eutelia, sappiamo che c'è una richiesta di insolvenza, lo dico a chi ci scrive. E ancora, avremo un piccolo approfondimento di cronaca a cavallo tra economia e giudiziaria, perché è arrivata la sentenza Parmalat, che Calisto Tanzi condannato a pagare 100 milioni per risarcire 30.000 risparmiatori che si erano uniti, una specie di class action. E ancora c'è l'audizione del presidente della Consob Cardia per quello che riguarda invece la vicenda Anton Veneta, anche di quello parleremo. E poi la manovra finanziaria, i commenti che sono arrivati oggi sono in sostanza una manovra che va a tagliare perché bisogna tagliare, e anche la reazione delle borse di oggi è dovuta anche alle misure che i vari paesi stanno prendendo, oltre che sulle banche, anche proprio sui loro conti pubblici. Certo è che non vi è un taglio vero e proprio della spesa strutturale, questo fanno osservare molti ascoltatori, magari daremo anche il dato su come si è mossa l'indebitamento della pubblica amministrazione negli ultimi anni, è continuato a crescere, cioè quello che è la spesa corrente, stipendi, consulenze e quant'altro, non si è fermata in questi anni. Allora, le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, poche devo dire, oltre a quelle che tratteremo nel programma, il petrolio ha ridotto i rialzi dopo che le scorte americane sono tornate a aumentare, insomma è a $70, era arrivato a 70,5, poi ha fatto 70,4, ma insomma siamo sempre intorno ai $70 al barile. Invece un vero e proprio boom di vendita di nuove case negli Stati Uniti, a spingere l'acquisto di nuove abitazioni sono le agevolazioni fiscali per quello che riguarda la prima casa. E poi ancora più 15%, 504.000 unità in più. Allora, sulle cifre dei giovani che non riescono né a lavorare, né a studiare, né a fare formazione, ripeto, sono oltre 2 milioni. L'aumento è di 170.000 rispetto all'anno scorso. Questo aumento è quasi tutto concentrato al nord, lo dico a chi non ha capito, e cioè tra nord e centro arriviamo a 110.000, 120.000 su appunto 170.000. Ancora vedo molti commenti caustici su questi giovani, è gente che non vuole fare nulla, e gente che guarda la televisione, ma non sarei così convinto. Adesso ci arriviamo. Ci sono delle responsabilità anche delle generazioni più grandi, di chi va in pensione a 60 anni forse, no? Di chi ha tutto garantito. Andiamo avanti, dai. Le manovre degli altri. Allora, intanto due piccole cose che riguardano la Germania. La Bundesbank, banca centrale tedesca, ha detto occorre contenere i rischi, perché la decisione della Banca Centrale Europea di acquistare titoli di Stato ed obbligazioni societarie crea rischi significativi alla stabilità. Adesso io non ce l'ho con la Bundesbank, però voglio dire, il piano europeo, che è la banca centrale tedesca, già la Bundesbank, il suo peso lo fa sentire spesso, sembra delle volte di avere la banca centrale europea al posto della Bundesbank o viceversa. I tedeschi, obiettivamente, ogni tanto. Allora, il piano della banca centrale europea di acquistare, di garantire che acquisterà titoli di Stato ed obbligazioni societarie è lo scudo per evitare attacchi speculativi non solo contro la Grecia ma anche contro la Spagna, il Portogallo e l'Italia e l'Irlanda ed altri paesi. Adesso è sto fatto apposta per dare una garanzia, una rete di garanzia, così come la Banca Centrale Europea diede liquidità alle banche quando rischiamo di fallire nel fine 2008, anche le banche tedesche, che erano molto esposte nei confronti dei prodotti tossici di mezzo mondo. E lì però la Bundesbank non ebbe nulla da dire. Se aiuta i governi e quindi i cittadini di questi governi, ha qualcosa da dire. E addirittura parla di rischi significativi alla stabilità. E quindi, cara Bundesbank, beccati il nostro gufo. Allora, ogni tanto non gli va mai bene niente ai tedeschi. Comunque andiamo avanti. Londra, questa è una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per ristrutturare anche il nostro debito, i nostri guadagni, visto che siamo un grande paese produttore di alimentare di qualità. Allora, l'Hotel Chocolat, che è una società britannica che è attiva nel settore chiaramente del cioccolato, ha preso un'iniziativa singolare. Cioè, siccome deve raccogliere 5 milioni di sterline sul mercato per finanziare acquisizioni, ha deciso che lancerà un'obbligazione a 3 anni da 4.000 sterline, ma il dividendo, gli interessi verranno pagati in cioccolatini, ossia chi sottoscriverà l'obbligazione triennale da 2.000 sterline riceverà come dividendo delle scatole di cioccolato. Per dare un esempio, se uno compra questa obbligazione da 3 anni da 4.000 sterline, circa 6.000 euro, riceverà in cambio 13 scatole di cioccolatini, che è un rendimento lordo ipotetico di 7,3% lordo. È ipotetico e anche un po' ipocalorico, però insomma su questo potrebbe essere interessante, come anche per l'Italia, magari non so, uno compra un bot e riceve un po' di pasta, una scarpa prima, una dopo, sono cose che abbiamo già visto. Torniamo seri, le finanziarie degli altri, le manovre degli altri. In Germania il piano prevede 10 miliardi di euro di tagli da qui fino al 2016. In Gran Bretagna, riduzione del deficit pubblico. Ieri la regina Elisabetta lo ha annunciato ufficialmente nel tradizionale Queen's Speech. Quasi 9 miliardi di euro di tagli entro fine anno. Gli stipendi del governo caleranno del 5%, niente più trattamenti privilegiati, via tutte le auto blu, tutte, non quelle per i sottosegretari, i direttori generali, dei ministri e dei viceministri, che sono invitati a usare i mezzi pubblici. Io ricordo la polemica di cui si è occupato anche Giuseppe Cruciani su quelli che prendevano le multe perché per andare a Montecitorio volevano farsele togliere, e qualcuno rispose: usare il tram? No, ecco. In Gran Bretagna già lo fanno. Vietato viaggiare in prima classe, immaginate cosa capiterebbe qua. E ne arriva anche una tassa sulle banche che varrà quasi 12 miliardi di euro. Così fa la Gran Bretagna. La Spagna ha già presentato 15 miliardi di manovra e appunto meno 5% tutti gli stipendi pubblici, congelamento delle pensioni minori, minori spese per investimenti e spesa sociale, e poi hanno già tagliato il 10% lo stipendio ai parlamentari, del 15% ai ministri. Devo dire che Zapatero ha tagliato lo stipendio per un totale di 12.000 euro all'anno, ma guadagnava, cioè il primo ministro spagnolo guadagna lordi 99.000 euro l'anno. Qua penso che di dirigenti della pubblica amministrazione, di presidenti di provincia, 90.000 euro l'anno ce ne sono pochi. Lui è appunto José Zapatero. E poi ha annunciato la tassa sui ricchi. Uno sforzo deve essere fatto da tutti i cittadini, ma soprattutto, detto Zapatero, da quelli che hanno un'elevata capacità economica. Allora, parliamo ancora di manovra con le dichiarazioni di questa mattina, manovra italiana in questo caso, del ministro Tremonti, che ha detto in mattinata, era a Parigi: siamo a un tornante della storia, siamo a una svolta storica, la scelta che l'Italia ha fatto è stata chiara, quella di salvaguardare i livelli dello Stato sociale e di operare forti riduzioni di spesa del governo centrale, regionale e locale. Conservare i livelli fondamentali dello Stato sociale, non ci sono riduzioni della sanità, non ci sono riduzioni degli aiuti, ci sono forti riduzioni della spesa dei governi, centrale e locale. Non stiamo dentro una congiuntura economica, siamo a un tornante della storia. Così questa mattina il ministro Giulio Tremonti. Allora, è arrivato già un primo commento dell'agenzia di rating sulla nostra manovra, ne parleremo più avanti. Standard & Poor's ha detto va bene, i conti sono così più sostenibili, e anche il presidente della Commissione Europea Barroso ha detto insomma gli sforzi dell'Italia vanno nella giusta direzione. Ma c'è anche qualche notizia carina, nel senso che secondo quanto si è preso la lista della banca svizzera HSBC arrivata all'Italia tramite insomma, quel furto, qualcuno Falciani di un ex dipendente, contiene 7.000 nomi di correntisti italiani. E sapete quanti soldi avevano questi 7.000 correntisti? 7 miliardi di dollari. 7.000 milioni di dollari per 7.000 correntisti, sembra il titolo di un film. 7.000 milioni per 7.000 correntisti, e che la media è molto semplice, 1 milione di dollari al correntista. Chissà se scudati, ma soprattutto chissà quanto dichiara. 18.000 probabilmente, in media, con le dichiarazioni dei lavoratori non dipendenti di questo paese, 18.000 euro lordi, e infatti con i risparmi di una vita sono riusciti a mettere da parte 1 milione di dollari in Svizzera. Formichine, formichine. E invece diversa la fotografia, come dicevamo, che ha scattato oggi l'Istat nel rapporto annuale sulla situazione del paese. Tre i titoli che ci hanno colpito: frattura generazionale da un lato, con una cassa integrazione che salvando i padri ha espulso i figli, il disagio economico delle famiglie, e invece la buona notizia che riguarda la capacità italiana di comunque mantenere buone quote di esportazione sui mercati. Avete ragione, HSBC non è Svizzera, era Hong Kong, Swiss, Boston, e anche Svizzera, inglese, insomma comunque la lista, se non ricordo male, fu rubata da Ginevra, per quello ho citato insomma la lista rubata dalla Svizzera. Comunque, presidente dell'Istat Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. Allora, senta quante notizie oggi ci sono, anche da tenere assieme, no? I 7.000 milioni di dollari per 7.000 correntisti italiani nei conti delle HSBC, e adesso, non per essere populisti, invece voi avete scoperto che da un lato diventano sempre più bamboccioni i nostri figli, ma lo diventano per un motivo anche obbligato, al di là di quella infelice battuta di Tommaso Padoschioppa, e cioè lasciano il posto i bamboccioni, voi dite, lasciano il posto ai conviventi forzati con i genitori costretti dai problemi economici. Cioè i bamboccioni non sono più a casa né per scelta né per piacere, ma perché non hanno i soldi per mantenersi fuori casa. Nonostante le aspirazioni, i 30-34 anni che restano in famiglia sono triplicati dal 1983, altro che emancipazione, dal 12% al 29% del totale. E parliamo di non di ragazzi, neanche di giovani, insomma di adulti dai 30 ai 34. Nel complesso invece i celibi e le nubili fra i 18 e i 34 anni che vivono con i genitori sono passati dal 49 al quasi 60 al 59% del totale. Praticamente sono scesi, una cosa drammatica, dal 2003 al 2009 di ben 9 punti. I giovani dai 18 ai 34 anni che vivono in casa, abitano fuori casa con i genitori. Cioè quello che sembrava un percorso di emancipazione da noi si sta tornando a un modello anni 60. E poi, presidente, ce lo racconti lei, l'allarme per questi 2 milioni di ragazzi adulti tra i 15 e i 29 anni che, come si dice in inglese, sono not in education, not in employment, not in training, li chiamano i NEET, non fanno nulla, non lavorano, non studiano e non fanno formazione. Prego. Certamente la crisi ha colpito duramente l'occupazione, lo sappiamo, e il rapporto indica chiaramente che attraverso la cassa integrazione sono stati un po' salvati i padri a scapito dei figli, i quali avevano delle occupazioni temporanee, a tempo appunto determinato, part-time, sottoinquadrati e così via. Solo nel 2009 l'occupazione tra i giovani di 15-34 anni che vivono in famiglia si è ridotta di 330.000 unità, mentre l'occupazione dei genitori, diciamo così, è calata soltanto di 98.000 unità. Questo da un certo punto di vista ha aiutato i bilanci familiari, perché chiaramente se a perdere il lavoro è il padre, l'impatto sul bilancio familiare è molto più alto. In realtà qui siamo di fronte a due categorie molto chiare. I giovani che hanno perso il lavoro spesso vivono a casa, ci sono altri uno o due redditi nella famiglia in cui vivono e quindi, come dicevamo, l'impatto è stato minore. Invece i padri che hanno perso il lavoro erano già in famiglie disagiate, al punto tale che il 30% di chi ha perso il lavoro tra i padri apparteneva già al quinto più povero della popolazione. Quindi abbiamo che i padri che hanno perso il lavoro vivono in famiglie veramente in grande disagio, i figli che l'hanno perso, grazie al cielo, non hanno messo in crisi il bilancio familiare complessivo. Da qui il titolo che noi abbiamo usato, la cassa integrazione ha salvato i padri ma ha espulso i figli, è così, diciamo, diretto il legame? In realtà sì, in questa fase nel 2009 è stato così diretto. Purtroppo abbiamo visto che a nostro parere c'è ancora un eccesso di occupazione indesiderata nelle imprese, in particolare industriali, perché nella prima fase della crisi è caduto l'orario pro capite. Non sia così, diciamo, edulcorato. Mi dica che cosa vuole dire, che c'è ancora disoccupazione. Nella prima fase della crisi, attraverso la cassa integrazione, i lavoratori hanno lavorato un po' meno, ma sono rimasti occupati formalmente. Invece nella seconda fase della crisi, e anzi addirittura adesso che c'è una ripresa parziale della produzione, questo si sta scaricando proprio sugli occupati, cioè le imprese preferiscono comunque liberarsi della manodopera in eccesso. Questo potrebbe voler dire che anche se vedremo un aumento del PIL nei prossimi mesi, potremmo vedere comunque un calo dell'occupazione, un aumento della disoccupazione. E questo è il temuto effetto di quello che si chiama in inglese jobless recovery, cioè la ripresa economica senza che vengano creati posti di lavoro, perché tu, diciamo, devi riempire di nuovi magazzini, riesce a evadere gli ordini con la forza che hai e chi è stato espulso non ti rientra in quel momento. Allora, siccome ci sono molti messaggi di ascoltatori che dicono ma insomma questi sono giovani che non hanno voglia di fare nulla, vogliono le macchine di cilindrata, l'iPhone, il Patek Philippe, le vacanze cost to cost, mi sembrano un po' dei qualunquismi, lo dico con massimo rispetto per gli ascoltatori. E molti dicono, insomma, per tanti extracomunitari trovano lavoro, non si capisce perché questi 2 milioni di italiani, che è un record europeo tra i 15 e i 29 anni, non studino, non si formino con l'apprendistato e non lavorino. Vorrei una risposta su questo, cioè quanto, secondo quello che voi vedete come presidente dell'Istat, è dovuto a una cultura, quanto invece a un fenomeno, ahimè, economico. E poi conti delle famiglie, presidente Giovannini, il disagio economico c'è, e anche qualche buona notizia. Per esempio, voi avete notato che sull'export le nostre imprese, comunque con tutte le difficoltà del caso, hanno tenuto. Le risposte fra 4 minuti, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, arriviamo alla manovra. Volete molti commenti sulla manovra? Adesso, ieri abbiamo fatto sentire le dichiarazioni di Silvio Berlusconi di un anno fa, quando diceva la crisi è finita, i media sono troppo pessimisti. È chiaro a tutti che c'è stata una sottovalutazione, se non da parte del ministro Tremonti, va detto per fare il distinguo, sicuramente da parte del Presidente del Consiglio, di questa crisi, cioè non mi sembra in discussione, così come è chiaro che alcune misure, ma lo dicono apertamente anche alcuni esponenti del Popolo della Libertà, prese dal governo Prodi e dal tanto criticato, in alcuni casi a nostro avviso anche a ragione, Vice Ministro Visco, penso alla somma massima per cui usare assegni trasferibili, quindi la tracciabilità dei pagamenti che adesso si vuole riportare a 5.000 euro, Visco la portò a 100 euro. Beh, chiaramente nei fatti c'è un riconoscimento che forse riportare il tetto a 12.500 euro ha aumentato l'evasione. La spesa corrente, lo ricorderemo poi con i dati, ha continuato a crescere in questi anni. Non è vero che si sia fatto un contenimento della spesa corrente della pubblica amministrazione, non è nei numeri, è continuato a salire e non per il debito è salito non per motivi strutturali di investimenti strutturali, cioè ponti, dighe, treni e quant'altro, ma per stipendi, consulenze e il resto. Cioè l'andamento della spesa corrente ha praticamente segnato, è arrivata, per quello che riguarda, è cresciuta del 4,2%, toccando il 43,5% del PIL solo l'anno scorso, cioè più 4% la spesa non per investimenti. Detto questo, vorrei tornare al presidente dell'Istat Giovannini. Allora, per concludere il vostro rapporto, il disagio economico che fotografate, sappiamo che le famiglie sono in disagio economico, 15% in una su quattro al Sud, quanto è peggiorato rispetto all'ultimo rapporto? Se dobbiamo andare a guardare il reddito disponibile delle famiglie, nel 2009 in termini reali è diminuito del 2,5%, sembra un numero piccolo, però se consideriamo che invece nel passato l'Italia è cresciuta molto poco, che l'inflazione ha mangiato una parte del reddito guadagnato, vediamo che oggi ciascun abitante italiano ha un reddito disponibile inferiore di 360 euro all'anno rispetto a quello del 2000. Cioè in questi 10 anni non solo il reddito delle famiglie è cresciuto poco, ma se consideriamo l'aumento della popolazione in termini appunto per abitante è addirittura diminuito. Questo è un qualcosa che certamente è avvenuto soprattutto nell'ultimo biennio, ma se consideriamo i 7 anni precedenti era cresciuto ugualmente pochissimo, quindi vuol dire che nella media le famiglie stanno male. L'ultima crisi di questi ultimi 2 anni non ha peggiorato la media delle famiglie cosiddette deprivate, cioè quelle che non arrivano a fine mese, che non riescono a pagare le bollette e così via, sono sempre il 15% più o meno delle famiglie, un numero molto grande, ma chi ha perso il lavoro è proprio nella componente familiare che era già deprivata, quindi la situazione per i poveri è diventata ancora più grave. Cioè piove sul bagnato, eh? Cioè, questo è un paese, adesso lo dico anche qui senza populismo, però 100 miliardi di euro sono stati scudati qualche mese fa, e quindi c'è qualcuno che ha riportato pagando il 5% e non il 43% che avrebbe dovuto, o il 40, miliardi di vecchie lire, milioni di euro. E qui non si capisce anche perché non si possa cercare di chiedere un contributo maggiore con questa crisi, vabbè. E poi c'è chi stava già messo poco bene, adesso sta messo anche peggio. Attenzione alla tenuta sociale del paese. Ancora, il potere d'acquisto, voi che dell'Istat siete dei maestri nel misurare il potere d'acquisto, anche con qualche polemica ai tempi del passaggio lira-euro, come va il potere d'acquisto, cioè al netto dell'inflazione? Beh, nel 2009 l'inflazione è scesa un po', soprattutto grazie al calo dei prezzi del petrolio, in generale delle materie energetiche, e anche i prezzi degli alimentari sono un po' scesi. L'inflazione nel 2009 è stata molto bassa. Nel frattempo c'era stato un recupero salariale dovuto a ritardi nei contratti precedenti e questo ha aiutato, insieme alla discesa dei tassi di interesse, alcune famiglie a respirare un attimo. Il 2010 purtroppo si presenta con un'inflazione in recupero, anche se non a livelli molto alti, siamo intorno all'1,5%, ma se i ritardi dovessero verificarsi negli adeguamenti dei salari, è chiaro che la domanda per consumi potrebbe risentirne. La manovra, beh, i salari del pubblico impiego sono bloccati per i prossimi 3 anni, quindi di cosa stiamo parlando? La manovra da questo punto di vista blocca i salari pubblici, però dall'altra parte potrebbe evitare un aumento dei tassi di interesse che si ripercuoterebbe anche non solo sul debito pubblico, ma anche sulle condizioni economiche delle famiglie, pensiamo ai mutui e così via. Allora, presidente dell'Istat Giovannini, voi dite una cosa anche ulteriore. Voi dite, insomma, qui il potere d'acquisto nostro pro capite, a parità diciamo di salario, è scivolato sotto il livello del 2000, per cui quello che guadagnavo io nel 2000 mi permetteva di acquistare più di quanto non guadagni adesso, e addirittura 3 punti percentuali nell'ultimo biennio, con un andamento ahimè simile a quanto si verificò tra il 92 e il 93, però con un reddito pro capite meno 2-3% nel 2009 rispetto al 2000 in termini reali, al netto dell'inflazione. Però dite, i consumi ne hanno risentito meno, perché? Perché l'inflazione disoccupazione è scesa rispetto all'anno precedente, ci sono stati degli adeguamenti dei contratti rispetto agli anni precedenti che invece avevano ritardato l'adeguamento dei contratti, e si sono abbassati i tassi di interesse nel corso del 2009, quindi chi per esempio doveva pagare un mutuo ha avuto un po' di respiro. Allora, io Presidente Giovannini la voglio, perché lei era, insomma, ha lavorato all'Ocse, prima veniva nostro ospite più di una volta, adesso come Istat avete fatto un lavoro eccezionale, anche perché praticamente voi fotografate anche qualcosa che funziona, ma la maggior parte delle domande che arrivano chiedono, soprattutto sui giovani, che obiettivamente è la cifra più devastante di quelle che avete fornito. Può essere che tutti questi ragazzi a voi risultino non occupati, non studenti, non in formazione, ma lavorino in nero, perché insomma questo è un paese che ha grosse fette di nero, e poi come mai però altri profili, molti scrivono gli extracomunitari, il lavoro lo trovano, cioè non è che siano anche un po' viziati? Io queste due domande, siccome sono molto frequenti, vorrei che lei rispondesse. Per quello che riguarda il reddito delle famiglie in termini reali, è praticamente diminuito, voi avete fatto anche il calcolo, di 360 euro rispetto a quello che le famiglie italiane avevano nel 2000, in un anno chiaramente, e non è una bella cosa, fare un salto indietro di 10 anni. Chi è che diceva che se il PIL cala del 5% si tornava al 2008-2007? C'era qualcuno che quando ci fu il calo del PIL diceva, beh, alla fin fine non è un dramma, si torna al 2007, non ricordo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, sì, molti si ricordano chi lo diceva, però vediamo. Altra cosa, alcuni dicono, ma cosa state dicendo? Gli extracomunitari vivono in 10, nello stesso letto, lavorano sotto costo e se la prendono con me. Io sto riferendo i messaggi che scrivete su questo. Ancora c'è un messaggio che mi fa impazzire, ma lei dove vive? Se hanno sospeso il patto di stabilità è ovvio che aumenta la spesa. Non istighi la gente, mi sembra Santoro. Non capisco che cosa vuol dire. Hanno sospeso il patto di stabilità, infatti tutti i paesi sono al deficit al 5%, il debito che sale. È ovvio che aumenta la spesa di chi? La spesa corrente? Cioè forse qui non ci capiamo, la spesa corrente è la spesa per investimenti non strutturali, quindi stipendi, consulenze, pensioni. Presidente dell'Istat, mi dà conferma di questo, così chiariamo? Cioè, sì, effettivamente. La spesa corrente è aumentata del 4,2% l'anno scorso, cosa c'entra la crisi? Boh. Prego. Beh, c'entra in parte, perché molto aumento della spesa corrente, come abbiamo detto, dell'anno scorso, in realtà è dovuto all'aumento dell'indennità di disoccupazione, la cassa integrazione, sì, e così via. Tutta CIG. Anche nel 2008 però è aumentata, Giovannini, in parte. Lì la CIG non c'era, più CIG, insomma, in conto capitale 2008 più 3,7 e 2009 più 4,3. Comunque, andiamo ai problemi reali. Allora, che cosa c'è di positivo in una fotografia comunque pesante che l'Istat oggi ha scattato? L'export, per esempio. Sull'export abbiamo dei risultati che forse non sono così sotto i riflettori. Anche nel 2009, quando le esportazioni sono diminuite del 20% in termini nominali, cioè in valore, bene, il 30% delle imprese italiane è riuscito addirittura ad aumentare questo valore. Questa percentuale del 30% è arrivata al 50% all'inizio del 2010. Vuol dire cioè che una parte delle imprese, soprattutto quelle di media dimensione, è riuscita non solo a riorientare le proprie produzioni e la propria presenza sui mercati per guadagnare quote nel corso della recessione più devastante del secondo dopoguerra, ma adesso altre imprese si stanno accodando. Questo vuol dire che una parte del sistema produttivo è molto vivace, purtroppo è una parte relativamente piccola. Sono in realtà queste medie imprese che vanno molto bene, mentre le micro imprese, cioè le imprese con meno di 9 addetti, e le grandi imprese hanno sofferto molto. Allora, ho dimenticato di ottenere la sua risposta su lavoro nero e extracomunitari, chiedo venia. Molti ascoltatori dicono, attenzione, questi dati rischiano di essere falsati da giovani che in sostanza sono un po' troppo anfangate, un po' troppo viziati, figli di papà e di mamma. Anche nel 2009, quando l'occupazione è caduta molto, l'occupazione degli extracomunitari o degli stranieri in generale è addirittura aumentata. Quindi vuol dire che qualche domanda sono riusciti a soddisfarla. In realtà sono lavori a bassissimo contenuto professionale e quindi vediamo un mercato del lavoro sempre più duale tra gli italiani che appunto rifiutano certi lavori e gli stranieri che coprono questa domanda. In ogni caso, tra i tanti giovani che appunto non sono né al lavoro né sui banchi di scuola, ci sono tanti disoccupati che stanno effettivamente cercando attivamente il lavoro e non lo trovano. Quindi l'idea dei bamboccioni in questo caso a me sembra un po' fuori luogo. Sì, direi una cavolata totale. Ci sono come sempre delle quote di ragazzi più viziati, ma quelli viziati poi il lavoro lo trovano alla fine, dai. Chi è veramente figlio di papà il lavoro lo trova, glielo dà papà. Il problema è chi deve restare in casa perché non ha di che mantenersi fuori. E tutti i dati statistici, basta metterla sempre in politica, statistici che voi avete fotografato. Presidente Enrico Giovannini, grazie molto, grazie anche per la disponibilità, l'ho tenuto un po' più a lungo del previsto, ma mi interessava molto il rapporto dell'Istat di quest'anno. Grazie quindi al presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Grazie a voi. Allora è partito il gioco, chi lo disse che mica si tornava al Medioevo perdendo 2 punti percentuali di PIL? Era Giulio Tremonti, lo disse in un periodo in cui era l'inizio 2009, in cui tutti un po' presero un abbaglio sulla durata della crisi. Devo dire, ripeto, Tremonti un po' meno, anche se allora disse le stime catastrofiche sono solo congetture, riapriremo i termini per la social card, i bond bancari al 7,5%, incontro con le parti sociali, le previsioni economiche sono solo ipotesi. Attenzione, sono congetture catastrofistiche e anche se perdiamo il 2% vuol dire che torniamo al 2006, mica al Medioevo. Oggi la situazione è cambiata anche nel giudizio del Ministro dell'Economia, visto che oggi ha parlato, siamo di fronte a un tornante della storia, una svolta epocale. E prima ancora parlò di rischio Armageddon. Va bene, c'è anche la borsa oggi che è in rialzo. +2,5, fa un po' specie parlare di borsa quando poi il paese viene chiamato a una fase difficilissima, fa un po' specie perché la borsa continua ad avere un andamento così tutto da valzer del Titanic. Ieri -3, fino a un -5, oggi +2, immagino che sia capitato qualcosa di sconvolgente sui mercati e infatti lo chiedo ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, Cheo Condina, buonasera. Buonasera a tutti. Che è successo? Tutti hanno cambiato tono. Mi è sfuggita qualche notizia? Ma non ti sei perso niente di particolare, diciamo. Pensavo. Solo qualcuno che viste le quotazioni molto basse ne ha approfittato per fare incetta di titoli, non certo piccoli risparmiatori, comunque, mettiamola così. Va bene, allora vediamo i titoli, dai, perché Prismian +8,50, Tenaris +7,60, Autogrill +6,5, Xor +5,90, Banco Popolare +5,5, Bulgari +5,20, Unipol +5%. Vado avanti, Saipem +4,5, CIR +4,30, Automatica +4, Luxottica +3,4, Estima Microelectronics +3,2, Comital Cementi il 3% lo guadagna, Buzzi, Unicem e anche quasi Azimut. Ansaldo STS invece in una giornata così, tutta di rialzi, perde il 3%. Sì, per il 3%, ieri aveva chiuso bene nonostante lo stacco della cedola, quindi almeno questo sostengono gli operatori, oggi i pochi realizzi sono concentrati su Ansaldo. C'è chi sostiene anche che questo piano di grande rigore annunciato dal ministro Tremonti possa anche influenzare i piani di infrastrutture, quindi Ansaldo, essendo un grande costruttore, potrebbe essere penalizzato. Una cosa simile era anche accaduta al titolo in pregiro settimana scorsa, che risentisse appunto dell'annuncio di tagli alle infrastrutture da parte del governo. Allora, ancora altri titoli li facciamo dopo il GR, sono giornate un po' pesanti. E ancora per quello che riguarda l'euro, volete sapere dell'euro? L'euro è a quota 1,22. E poi c'è una battuta di un ascoltatore che dice: a Barisò abbiamo il debito greco, ma il mare di Rimini, vabbè, adesso mettiamola così, il mare è anche quello della Toscana, della Calabria, della Puglia, di tante, la Sardegna. Ci risentiamo dopo il GR 349-238-6666 per gli altri titoli sul mercato, a partire anche Cheo da Eutelia, perché ha fatto un +22%, ma lì la situazione è molto critica. Poi le scalate, i crack, i 100 milioni chiesti a Calizio Tanzi per 30.000 risparmiatori. E anche vedremo se inizierà, altrimenti salterà tutto il programma, la conferenza stampa attesa del Presidente del Consiglio Berlusconi per spiegare questa manovra dura. È una manovra di sacrifici. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo adesso la pagina dedicata ai mercati, poi come da scaletta la vicenda Parma, la Teanton Veneta e anche la legge finanziaria, in attesa che inizi l'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi per illustrare la manovra. Una nota, chi scrive: noi non abbiamo mai sostenuto che i lavori fatti dagli extracomunitari, sottopagati in alcuni casi e in nero in altri, siano lavori appetibili. Si stava rispondendo con il presidente dell'Istat a delle obiezioni che arrivavano da altri ascoltatori che dicevano: ma insomma, questi 2 milioni di giovani, record europeo, che non lavorano, non studiano e non fanno formazione, potrebbero andare a fare i lavori che fanno altri. Questo era il motivo per cui ne parlavamo. Chiusa la parentesi, allora Ceo Condina, oltre alla ai titoli che abbiamo toccato, per cui insomma i rialzi complessivi di tutto il mercato, Prismian più 8,5, Tenaris 7,6, Autogrill, c'è la vicenda Eutelia più 22%. Sì, Eutelia, come sappiamo, è una società che è sull'orlo del default, cioè del fallimento, dell'insolvenza. Oggi sembra esserci stata una svolta, perché il presidente Leonardo Pizzichi ha sostenuto pubblicamente che ci sono buone possibilità che il gruppo eviti appunto il default, essendoci 4 offerte per alcuni asset. Inoltre, secondo Pizzichi, c'è anche un interesse per l'aumento di capitale, che dovrebbe essere di insomma una 50 di milioni per i prossimi 5 anni. Si spera, o almeno sperano i dipendenti e anche gli azionisti di Eutelia, che almeno una di queste 4 offerte sia poi reale, insomma. Ancora, dicevo dei rialzi generalizzati, però Autogrill, obiettivamente Prismian li hanno avuti più alti degli altri, anche Tenaris. Andiamo rapidamente, Autogrill, Prismian, una cosa che rappresenta anche una fotografia di cosa sta capitando: il settore del lusso è in netta ripresa. Allora, ci sono i nuovi ricchi cinesi, i nuovi ricchi indiani, i nuovi ricchi brasiliani, però ci sono anche i sempiterni ricchi di casa nostra, perché insomma Bulgari ha fatto più 4% sulla scia del risultato del marchio Burberry, che ha fatto un più 23% di utile netto, e non mi sembra che sia un marchio così economico, e fatturato più 7%. Chiusa la parentesi, evidentemente ci sono due velocità. Andiamo su Prismian e Tenaris e Autogrill. Prismian corre, insomma, la migliore del listino, corre dopo questa dichiarazione pubblica da parte di Tamburi, Angelini e D'Amico, che hanno costituito questa nuova società per salire nel capitale. Loro sostengono di dover fare un nucleo italiano che appunto diventi un azionista di riferimento in quella che potrebbe essere la prima public company italiana, cioè Prismian. Dicono che vogliono ancora acquistare azioni, quindi insomma gli operatori scommettono e acquistano i titoli. Autogrill ha acquisito nuovi contratti a Miami, si stima un fatturato per i prossimi anni grazie a questi nuovi contratti di 100 milioni, era già presente nello scalo, non fa che confermare insomma la sua vocazione internazionale. Infine Tenaris, qui questa è una questione di dazi: in Messico sono stati introdotti dei dazi sull'importazione di tubi cinesi. Tenaris produce tubi e quindi insomma acquista vigore l'esportazione di Tenaris in Messico a fronte di queste penalizzazioni cinesi. Tra le banche, devo dire bene tutte, quella è un po' più al palo, Intesa, perché più 0,37%, pesa ancora insomma il rinvio dell'IPO della Veneta e collocamento di Fideuram. Del collocamento di Fiderum, scusatemi. Altri titoli: Fiat più 2,80, migliori e peggiori, Crespi meno 9, Intech meno 6, Hotel, abbiamo detto, Poltrona Frau molto bene, più 18%, SL Therapeutics più 14%. Grazie a Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie a voi. Allora, i messaggi che continuano ad arrivare sul rapporto Istat, avete ragione, l'allarme sui record di giovani a rischio esclusione, not in education, employment or training, oltre 2 milioni, il primato europeo. Hanno un'età fra i 15 e i 29 anni, sono il 21%, 1 su 5 di chi ha in questo momento tra i 15 e i 29 anni. Dove sono cresciuti? Perché la cosa è interessante anche da questo punto di vista, cioè sono tantissimi, appunto, oltre 2 milioni, ma sono cresciuti soprattutto nel centro-nord del paese. Sono 126.000 in più rispetto all'anno scorso. Di questi 126.000, 85.000 vivono nel nord, 27.000 vivono nel centro e il resto, e quindi stiamo parlando di 15.000 in aumento, sono nel sud. Il sud partiva però già dalla fetta più grossa, perché su 2 milioni di giovani in queste condizioni, 1 milione si trova nel mezzogiorno. E allora, senza essere populisti, vi leggo due messaggi di quelli un po' più costruttivi rispetto ad altri che ogni tanto arrivano. Sono la mamma di uno dei bamboccioni, tra virgolette, che non lavora e non studia. Cosa faccio? Lo mando in Australia? Grazie, mamma disperata che vive nel nord-est. E poi un altro messaggio. Caro Barisoni, sono una ragazza di 19 anni, mi sono diplomata col 100 al liceo classico. Decidere cosa fare è sostanzialmente una scommessa persa in partenza. La mia generazione non vede futuro, di certo non qui in Italia, e l'idea di vegetare in casa fino ai 30 anni non è né bella né comodo, è alienante. Non so se possa interessare, anzi penso di no. Insomma, nel 92-93 si è laureato il sottoscritto, non hanno dei begli anni nemmeno quelli, però insomma, su con la vita e cerchi di tenere botta, ma insomma, è chiaro che poi le riforme devono essere strutturali e qui qualcuno deve rinunciare a qualcosa di più. Mi fermo qui, andiamo con invece le vicende giudiziarie, mi riferisco oggi al Tribunale di Milano, due importanti processi. In un caso c'è proprio una vera e propria sentenza. Il processo riguarda da un lato il tentativo di scalare Anton Veneta, oggi è stato sentito il presidente della Consob Cardia, accusato da Fiorani di aver avuto numerosi rapporti con lui, ma c'era anche il fronte Parmalat, il crack Parmalat. Raffaella Calandra a Palazzo di Giustizia per noi, buonasera. Buonasera Sebastiano, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, noi siamo sempre in attesa che inizi a parlare il Presidente del Consiglio. Comunque, partiamo dal crack Parmalat, che è più facile. In corte d'appello, pena confermata a Callisto Tanzi. Pena confermata per Callisto Tanzi, 10 anni, ma confermate anche le assoluzioni per invece gli ex manager di Bank of America. Invece sono state trasformate in condanna quelle che erano in primo grado delle assoluzioni per dei membri indipendenti del CDA di Collecchio. Ma la notizia di oggi, di questa sentenza di secondo grado, è la condanna per Tanzi e per altri due imputati a pagare anche una provvisionale per i risparmiatori, cioè cosa che era stata invece negata in primo grado, quindi un pagamento ad un ulteriore risarcimento per i risparmiatori. E da un primo calcolo fatto più o meno a spanne, perché ovviamente le cifre sono molto alte, si parla di circa 100 milioni che l'ex patron di Collecchio dovrà versare ai risparmiatori. Per auguri. Ora è solo teorico, però. Sì, perché appunto ufficialmente Tanzi è nulla tenente, in quanto tutti quanti i suoi beni sono stati sequestrati dalla procura di Parma, che ha ancora aperto il processo per la bancarotta della Parmalat. Oppure potrebbero essere questi 32.000 risparmiatori a dare 100 milioni a Callisto Tanzi, visto che appunto è nulla tenente. Vicenda Anton Veneta, sentito invece il presidente della Consob Cardia, il quale, se ho ben capito, ha negato di aver mai avuto rapporti con Fiorani, con il Dominus al tempo, insomma, secondo l'accusa anche con il governatore della Banca d'Italia di allora, Antonio Fazio, dell'intero tentativo di scalata Anton Veneta, che poi non era solo Anton Veneta, era Anton Veneta da un lato, BNL dall'altro, con il Corriere della Sera di mezzo, se vogliamo ricordarci tutti i dettagli. Prego, Raffaella. Ha esordito proprio così il presidente Cardia: l'incontro non c'è stato. Alla domanda della difensore dell'ex numero uno di Banca Italia, ha detto che quell'incontro che Fiorani aveva raccontato, di un incontro entrando alla sede della Consob dalla porta di servizio, un incontro non istituzionale su un divanetto in cui lui avrebbe illustrato alla presidente della Consob anche le modalità con cui questo tentativo di scalata stava avvenendo. Secondo Cardia questo incontro non c'è stato, ma anzi ha riferito di tutte le volte in cui in sedi istituzionali ha incontrato Fiorani, raccontando anche di un episodio invece di un convegno in cui Fiorani lo avrebbe avvicinato e lo avrebbe quasi strattonato pur di riuscire a parlare con lui. Ha invece raccontato le telefonate che riceveva dal senatore Grillo, ma anche dall'ex presidente della Commissione Finanze, per che quasi si lamentavano, diciamo, delle pressioni, così ha raccontato Cardia, che la Consob faceva in modo ossessivo, ha usato questo aggettivo, per andare a verificare che cosa stava succedendo nel tentativo di scalata della BPL su Anton Veneta. Però ha detto Cardia non sono state sgradevoli né aggressive. C'è anche da dire che il presidente della Consob all'ingresso dell'aula non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti né sulla sua su quanto, diciamo, emerso dal processo, né anche sulle contestazioni che in qualche modo erano state adombrate sul ruolo del figlio e sull'incarico che il figlio aveva in una società riconducibile. Beh, insomma, breve la vita felice di Giampiero Fiorani, dai presunti divanetti della Consob ai certi divanetti di Lele Mora. Comunque, grazie a Raffaella Calandra. Ancora due messaggi, poi il traffico, in attesa della conferenza delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio per illustrare la manovra. Risposta della giovane che aveva scritto prima: intanto vai a lavorare in fabbrica o a fare lavori umili, cara 19enne, invece di pretendere la scrivania e ogni comodità. Siate umili, io ho due titoli di studio, lavoro come operaio a tempo indeterminato e mi sto facendo un futuro. La testa dovete cambiare la testa, la pacchia è finita, cari giovani. D'accordo, d'accordo sull'umiltà, d'accordo che la pacchia sia finita, ma la pacchia è finita per noi, per loro non è nemmeno mai iniziata, mi permetto. E poi un messaggio interessante di Felice che dice: 21 anni fa ero senza arte né parte, a 20 anni mi sono, quindi ne ha 41 immagino, mi sono arruolato nella legione straniera e dall'anno scorso a 42 anni sono in pensione con 3.800 euro al mese. Per chi non sa cosa fare, provi con la legione straniera. Sì, a parte il fatto che si rivolge solo all'universo maschile, ma qui la legione straniera è quella di ragazzi che se ne vanno da decenni all'estero. Questa è la legione straniera a cui noi assistiamo. Traffico e poi la manovra finanziaria. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo che il tema dei giovani continua a occupare i vostri messaggi. Non possiamo continuare a parlarne, anche se, ripeto, la notizia più forte che è arrivata dall'Istat di oggi, dal rapporto annuale dell'Istat di oggi, a mio avviso, assieme al fatto che il potere d'acquisto delle famiglie italiane sia tornato ai livelli del 2000, cioè anzi 340 euro in meno in termini reali, quindi al netto dell'inflazione rispetto al 2000, questo per dire in media. Poi lo sappiamo che ci sono decine di migliaia di italiani, centinaia di migliaia di italiani che ce l'hanno ben più alto il potere d'acquisto e anche il conto corrente e anche il tasso di evasione fiscale. Detto questo, la manovra. Avremo modo e tempo per commentare con vari economisti la manovra, se oltre che essere una manovra, diciamo, che serve. Oggi Standard & Poor's ha detto la manovra nella direzione giusta, l'ha detto anche l'Unione Europea, se sia una manovra poi strutturale sui conti pubblici, riduca veramente la spesa corrente che continua a aumentare, oppure metta solo delle pezze, contenga il danno. Certo, alcuni anche sui giornali di oggi invocano tagli ben più pesanti. Le province italiane, per esempio, dove sono finite le proposte per eliminare le province? E poi anche aumento più sostenuto dell'età pensionabile, riduzione degli sprechi della pubblica amministrazione, la sanità soprattutto, e la lotta all'evasione. Su questo solco si è mosso oggi l'intervento del Presidente della Camera, Gianfranco Fini. Ascoltiamolo proprio a margine della presentazione del rapporto Istat, a cui abbiamo dedicato buona parte della prima ora del programma. La nostra prima preoccupazione, in altri termini, penso debba essere quella di non ripetere l'errore di interventi soltanto congiunturali della riduzione di spesa e di non riproporre politiche di sostegno pubblico della crescita economica che in passato si sono rivelate, lungi dal garantire una ripresa della produzione e della competitività, come un fattore distorsivo della nostra economia. E beh, c'è molto di politico in questo giudizio, perché quando Fini dice deve essere non ripetere l'errore di interventi solo congiunturali di riduzione della spesa, molti l'hanno letto come una parziale critica alle manovre precedenti. Insomma, forse la manovra dei 3 anni dell'anno scorso, quella ricorderete, la finanziaria approvata in 9 minuti, forse era un po' troppo modesta, visto che adesso c'è una manovra correttiva, era troppo modesta, era troppo ottimistica, come un po' tutta l'impostazione anche dell'esecutivo, non lo diciamo noi, ma le dichiarazioni che abbiamo fatto ascoltare in questi giorni a partire da quelle del Presidente del Consiglio. Ma è importante che il governo e la classe politica prendano atto che la situazione è cambiata ed è peggiorata anche oltre, va detto, non per giustificare il governo, ma va detto oltre ogni previsione. Nessuno immaginava una seconda ondata così pesante che andasse a colpire i debiti dei paesi dell'area euro. Vedo un messaggio: io mi sono laureato nel 93 in piena Mani Pulite, sì, più o meno anch'io, ho inviato circa 800 curricula senza nessun colloquio. Dopo 15 giorni dalla laurea ho iniziato a fare il custode notturno, poi il poliziotto, e adesso sono dirigente di una multinazionale. Sì, sono d'accordo, potremmo fare una puntata su questo. La situazione è difficile, ma forse proprio perché uno è giovane e non conosce cosa hanno fatto gli altri, non è la prima volta che questo paese si trova in una grossa difficoltà economica e congiunturale. Va bene, le altre dichiarazioni del mondo politico. È uscita un'agenzia che la dice lunga su quello che capiterà poi nei prossimi mesi. Sarà sciopero generale per la CGIL, lo proporrà domani mattina Guglielmo Epifani al direttivo. L'obiettivo della protesta è lo sciopero entro giugno, è quello di cambiare i contenuti della manovra, quindi non è una critica alla manovra in senso stretto, ma sui contenuti della manovra. E il motivo l'ha spiegato questa mattina sempre Guglielmo Epifani, perché è arrabattata, secondo lui, ed è prima la crescita. C'è un problema di iniquità, c'è un problema che non sostiene lo sviluppo, ma c'è uno straordinario problema che non affronta seriamente nessuna riforma. È una misura che non è all'altezza, se fosse davvero, com'è che è stato detto, un tornante della storia. Ma non solo nelle dimensioni, è un problema di qualità. È una manovra raccogliticcia per far fronte a dei problemi che non risolverà nessun problema. E poi invece si concentra sugli stipendi e sul taglio ai costi della politica e delle misure anti-evasione Luigi Angeletti, che però ha definito il congelamento degli stipendi del pubblico impiego per 3 anni una misura ingiusta. Ascoltiamolo al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Bene, il taglio ai costi della politica, le iniziative per ridurre l'evasione fiscale, male il congelamento dei salari dei dipendenti pubblici. La tracciabilità soprattutto delle fatture, oltre che denaro contante, riduce molto gli spazi dell'evasione fiscale. E quindi dobbiamo essere fiduciosi. La vera questione è farlo, superare tutte le resistenze che secondo me ancora ci sono nel Parlamento, nel mondo politico, sia sul versante dei tagli ai costi della politica, che immagino che sia complicato per loro, come per i capponi anticipare il Natale, no? È uguale. Quindi cominceranno a dire che è demagogico, che è populista, che in fondo i risparmi sono pochi soldi e che quindi è inutile farli, e la stessa cosa cominceremo a vedere sul tema dell'evasione fiscale. E poi poco fa anche il giudizio della Confindustria. Domani l'assemblea della Confindustria, tra l'altro la trasmetteremo in diretta l'intervento del Presidente Marcegaglia e del Presidente del Consiglio domani dalle 10:30 di mattina in poi. Dicevo, la Confindustria in una nota mantiene alta la guardia sulla manovra economica e attende un quadro definitivo per sciogliere il sì condizionato espresso già ieri al tavolo a Palazzo Chigi. Ed era questa l'ultima notizia di Focus Economia. Devo dare una correzione: la legione straniera accetta anche le donne, da 4 anni a questa parte, non penso possa essere un problema per risolvere la disoccupazione giovanile di cui ci ha raccontato il problema dell'Istat, ma tant'è. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani mattina alle 10:30 in diretta dall'Auditorium della Musica di Roma e poi alle 17 con Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.